Mix 24, i gialli della storia. Ugo La Malfa è morto questa mattina poco prima delle 6 nella clinica romana nella quale era stato ricoverato sabato scorso. La Repubblica perde uno dei suoi statisti più lucidi, una coscienza coraggiosa e rigorosa. Il 26 marzo 1979 Ugo La Malfa muore da laico, così come è vissuto. Era un predicatore disarmato, La Malfa. Nella camera ardente di Palazzo Chigi non una croce, non una benedizione. A porgergli l'estremo saluto il presidente della Repubblica Pertini, segretari di partito, politici e tanta gente. Un esempio di coerenza nel perseguire una linea di serietà e di rinnovamento. Ugo La Malfa per molti era lo Stato, la Repubblica. Un politico ricordato più per quello che ha suggerito che per quello che ha fatto. Chi lo definiva un visionario capì forse troppo tardi che quelli di La Malfa non erano sogni, non erano utopie. Erano le soluzioni, le uniche soluzioni possibili. Antifascista, sognò per tutta la vita una sinistra in grado di governare. Un partito comunista che voltasse definitivamente le spalle all'Unione Sovietica, che scegliesse come valore supremo la libertà. Sperò sempre che i socialisti l'appoggiassero. Fu deluso, tradito, a volte deriso. Ma non abbandonò mai la sua battaglia, mosso da una vocazione politica che fu la grande stella polare della sua esistenza. Avrebbe voluto costruire un partito laico, borghese e democratico. E la borghesia più illuminata guardò sempre ai repubblicani con speranza e con fede, ma non lo appoggiò mai fino in fondo. Per moltissimi anni fu l'ago della bilancia della politica italiana. Ugo La Malfa nasce a Palermo nel 1903 da una famiglia modesta. Studia a Venezia, all'Università Ca' Foscari. È lì che conosce il liberale Giovanni Amendola ed entra nel movimento antifascista. Nel 1928 viene arrestato con l'accusa di aver cospirato per l'omicidio di re Vittorio Emanuele III. Scagionato e liberato, resta un acerrimo nemico del regime fascista. Nel 1933 il banchiere Raffaele Mattioli lo chiama a Milano, ai vertici della Comit. Inizia così la grande avventura professionale di La Malfa. Nel 1941 dà vita al Partito d'Azione. Nell'aprile 1945, da ministro dei trasporti del governo Parri, realizza un sogno: unire il nord e il sud del paese con una rete stradale e ferroviaria efficiente. Il mezzogiorno non è più così lontano. Nel 1951 si batte per la liberalizzazione degli scambi e il libero mercato. Quando andavo all'estero e incontravo i miei colleghi tedeschi, inglesi, francesi, ero orgoglioso perché tutti mi chiedevano con quale coraggio io avessi fatto questo. Prima l'Italia, paese ad aprire le frontiere. A partire dalla metà degli anni 50 lavora per costruire l'alleanza del centro-sinistra. Dopo essere stato uno dei padri della programmazione economica, ne diventa il lungimirante censore. Lancia un grido d'allarme: la spesa pubblica è ormai fuori controllo. Nel 1965 chiede una politica straordinaria dei redditi e un rigoroso contenimento dei consumi individuali. Passa alla storia come l'uomo dei sacrifici. Alla fine degli anni 60, La Malfa capisce che senza l'apporto dei comunisti in Italia non è possibile governare. È l'inizio del dialogo. Nel 1978 appoggia la partecipazione dell'Italia al sistema monetario europeo. Sono i giorni più cupi dell'Italia repubblicana. Il 16 marzo le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro. La Malfa reagisce con estrema durezza. Si è dichiarata guerra allo Stato. Si è proclamata la guerra allo Stato democratico. Ma lo Stato democratico risponde con dichiarazioni di guerra. Ma se nessuno può proteggere noi, noi con le nostre leggi possiamo proteggere tutti, e questo è il nostro dovere. Il 24 marzo 1979, alla vigilia di nuovi importanti incarichi governativi, La Malfa viene colto da un malore. Muore due giorni dopo. Con la morte di Ugo La Malfa, l'Italia perde uno dei grandi padri della Repubblica. Un pessimista, un uomo scomodo, una coscienza critica per un paese inquieto. Ma chi era Ugo La Malfa? Un democratico illuminato e moderno oppure un anticonformista rigoroso? È stato davvero un profeta inascoltato? E che cosa resta oggi dell'appassionata militanza politica di La Malfa? Quale eredità ha lasciato al nostro paese? Oggi a Mix 24 proveremo a rispondere a questi quesiti con le testimonianze di Giorgio Napolitano, Giulio Andreotti e Eugenio Scalfani. È un'eredità di rigore politico e morale, di serietà culturale, e queste non sono qualità da poco, specialmente di questi tempi. È un'eredità di profondo attaccamento ai valori di libertà e di democrazia sanciti nella nostra Costituzione. Lui ha avuto un ruolo essenziale nella decisione di portare l'Italia, come lui si esprimeva, portare l'Italia al di là delle Alpi. La sua caratteristica era quella di avere sempre come sfondo delle preoccupazioni la crescita economica e l'equilibrio della finanza pubblica. L'Italia che ci ha lasciato non era quella che lui avrebbe voluto lasciarci, quindi non ce l'ha lasciata. Si vede, i frutti si vedono, di un'Italia che ha camminato poco sulla sua strada, sulla strada che lui ha indicato. Debbo dire però che ha seminato. Ma qual è stato l'itinerario formativo di Ugo La Malfa? Ci aiutano a capirlo lo storico Gennaro Sasso, l'economista Paolo Savona e il figlio Giorgio La Malfa. Gli incontri decisivi sono stati inizialmente quelli della facoltà veneziana che lui ha frequentato, l'Università di Ca' Foscari, e lì il contatto molto forte è stato con due maestri di quell'ateneo, cioè con Silvio Trentin e con Gino Luzzatto. Anche se c'è un maestro, è vero, che è forse il primo, il più originario, se possiamo dire così, è mai dimenticato. E questo maestro è stato Giovanni Amendola. La Malfa è stato vicino, giovanissimo, è stato vicino ad Amendola nell'Unione Liberale Democratica, proprio negli anni terribili in cui il fascismo, insomma, diventava dittatura, insomma, in cui poi Amendola perdeva anche la vita in seguito al noto attentato. Giovanni Amendola vide mio padre in un congresso, il primo congresso dell'Unione Democratica Nazionale nel 24, nel 25, e disse: fino a quando ci saranno voci come queste che escono dalle università, perché aveva 21 anni, il fascismo non vincerà. Quello è stato veramente il punto di riferimento, insomma, il pensiero politico e la disciplina morale di Giovanni Amendola sono state veramente, insomma, fondamentali per La Malfa. Con questa premessa, ecco, devo dire che gli anni di Milano credo che siano stati veramente decisivi. Sono stati gli anni in cui lui è stato a contatto con Raffaele Mattioli, che allora era l'amministratore delegato della Banca Commerciale, che aveva, insomma, messo nell'ufficio studi, è vero, di questa banca molti intellettuali che quindi davano un tono, è vero, particolare. E credo del tutto irrepetibile. E lì entrò in contatto con il grande pensiero economico contemporaneo, Keynes, il New Deal, e quindi maturò questa sua originale capacità di essere politico ed anche economista. Decifrando il suo pensiero posso dire che è un misto, un equilibrio tra il liberismo di Einaudi e l'interventismo, lo statalismo di Keynes e le idee regionaliste di Cattaneo. Nella cerchia di Raffaele Mattioli trovo Adolfo Tino. Con mio padre si trovarono immediatamente in un rapporto di grande amicizia e di sintonia. Erano tra gli uomini più intelligenti che io abbia conosciuto. Insieme costruirono il Partito d'Azione. La Malfa quindi è un politico, un economista d'eccellenza ed è anche tra i primi a intuire la necessità di un mercato e di una politica che comprenda tutta l'Europa. Ascoltiamo ancora Eugenio Scalfari, Giorgio Napolitano, Giulio Andreotti e Giorgio La Malfa. Non ha l'impressione che agli italiani non gli interessi delle sue riforme, della ripresa economica, delle società europee? Non ha l'impressione di essere estraneo a questa società? No, io amo troppo il mio paese per sentirmi estraneo. Dirò che io ho avuto due momenti in cui ho guardato l'Europa con estremo interesse, per questo l'ho guardato in tutta la mia vita politica. Un momento per me entusiasmante fu il 1951, quando fui ministro del commercio con l'estero. Io allora aprii le frontiere. Si viveva in regime di contingenti, di autarchia quasi. Io allora, mettendomi d'accordo con il presidente del Consiglio De Gasperi, con Vanoni e con Menichella, abolì i contingenti e abbassai i dazi del 10%, feci la cosiddetta liberazione degli scambi. Ugo La Malfa ebbe 3 o 4 punti di riferimento molto importanti per lui e per tutti noi che gli siamo stati accanto. Uno fu l'Europa, certamente, un'Europa che fosse un soggetto politico, non semplicemente un'espressione unificata di un'area di scambio. Quando fu proposto, e non solo da La Malfa, fu proposto innanzitutto da De Gasperi un disegno europeistico, il grande obiettivo della Europa unita, si era già nel pieno della guerra fredda, parlo della fine degli anni 40, l'Italia era spaccata in due, l'Europa era spaccata in due, c'era all'ordine del giorno l'adesione dell'Italia al patto atlantico e ciò determinò una contrapposizione profonda tra forze di governo e forze di sinistra. Allora la sinistra nel suo insieme, comunisti e socialisti, era la opposizione e osteggiò il disegno europeista di De Gasperi e di La Malfa perché lo considerò una sorta di appendice della scelta atlantica di collaborazione privilegiata, di alleanza esclusiva con gli Stati Uniti d'America. Io penso che La Malfa vedeva congiunti questi problemi di un coordinamento nel campo economico-finanziario e di una maggiore integrazione nel campo politico, sempre in questo quadro, lui era molto attento a questo, in un quadro di grande collaborazione con gli Stati Uniti d'America. Fin dagli anni 60 comincia la correzione dell'atteggiamento del Partito Comunista rispetto alla comunità europea. A partire dal 69 i rappresentanti dei gruppi parlamentari comunisti entrano a far parte del Parlamento europeo e della battaglia per fare andare avanti soprattutto un progetto di unità politica e un progetto di democratizzazione della comunità. I comunisti accettano quello che poi era la linea disegnata da Moro della astensione, si chiamò l'italiano una lingua perfetta, si chiamò della non sfiducia, l'astensione verso un governo, infatti io lo presiedevo, quindi conosco bene come andarono i fatti, e questa astensione fu possibile per un duplice risvolto di patti con Berlinguer. Da un lato noi eravamo impegnati che se loro ritiravano questo sostegno noi ci saremmo dimessi, dall'altro loro si erano impegnati, senza di che non si poteva fare alcun accordo, a riconoscere testualmente, e lo fecero con una mozione in Parlamento firmata e votata da loro nel novembre del 77, che Patto Atlantico e Unione Europea sono punti di riferimento fondamentali della politica estera italiana. Questa è stata l'evoluzione, sono voluti un certo numero di anni, però è stata un'evoluzione, e La Malfa ha spesso pungolato verso queste posizioni di revisione da parte dell'ostilità sia dei socialisti che dei comunisti. Il giorno che quel governo Andreotti doveva presentarsi alle Camere fu rapito Moro. La solidarietà nazionale continuò ancora per qualche mese. Nel dicembre del 78 si pose il problema del sistema monetario internazionale. Mio padre forzò la mano ad Andreotti e ottenne l'ingresso, ma subito dopo, inizio del 79, Berlinguer annunciò che il Partito Comunista passava all'opposizione. Un altro punto di riferimento di La Malfa è il rapporto con l'industria, più in generale con la borghesia italiana. Ne parlano Eugenio Scalfari, Giulio Andreotti e Giorgio La Malfa. Le ha cercato di avere con sé l'avvocato Agnelli, poi ha dovuto ridursi alla sorella, ha cercato di avere con sé Carli e così via. Questo non è esatto. Mi permetta di dire, io non ho cercato nessuno e l'ho detto mille volte. Io ho saputo da un giornalista autorevole che Carli avrebbe con piacere militato nelle file del Partito Repubblicano Italiano, e allora io gli ho telefonato e l'ho invitato, era mio dovere. Ho saputo dalla sorella di Agnelli, che da tempo militante nel partito, è sindaco con una giunta repubblicana a Porto Santo Stefano, ho saputo dalla sorella che il fratello avrebbe militato volentieri nel Partito Repubblicano. Io l'ho invitato. E quando Agnelli ci ha detto non posso venire, l'abbiamo ringraziato, non è che ci abbiamo pianto sopra. Lui era certamente un uomo che aveva cultura di impresa, sapeva qual era la moralità dell'impresa, quale avrebbe dovuto essere, e considerava il capitalismo italiano come un capitalismo straccione. Lui era stimato nel campo anche direi industriale proprio perché se ne riconosceva la competenza, però aveva una sua grandissima autonomia e anzi lui fece delle vere battaglie contro il parassitismo di alcuni industriali, i quali avevano fatto le loro fortune da decenni a decenni attraverso le protezioni doganali, e che quindi all'inizio, per esempio verso il modello di mercato unico europeo, guardavano con grandissima difficoltà. Conosceva Agnelli, lo considerava uno delle patrimonio del paese, un ambasciatore possibile dell'Italia nel mondo, e naturalmente aveva anche dei momenti di polemica, un uomo molto franco. Quando Agnelli chiamò una mattina dicendo ho fatto l'accordo per il punto unico della scala mobile con l'AMA, mio padre, allora vicepresidente del consiglio del governo Moro La Malfa, gli disse questa è una fesseria, distruggerete l'industria italiana, succederà un sacco di guai, e non gli volle parlare per un po' di tempo. Agnelli disse ma io mi sono consultato con Moro, e lui disse ha fatto male a consultarsi con Moro perché di queste cose dovete parlare con me, e aveva ragione lui. Poi sono stati 15 anni per smontare il punto unico di contingenza. Un altro aspetto della politica, della lungimiranza di Ugo La Malfa, sta nel suo rapporto con la sinistra. Ascoltiamo il commento di Eugenio Scalfari, Giorgio Napolitano, Giulio Andreotti e l'economista Paolo Savona. Io da molti anni riconosco che il Partito Comunista ha un processo di revisione in corso. Del resto il mio confronto col Partito Comunista, si parla tanto oggi di confronto, risale al 65, io ebbi nel 65 dei dibattiti con Ingrao e con Amendola. E posso dire il tema di questo dibattito, forse può interessare, io posi ad Ingrao questo problema, lasciamo andare l'esperienza storica della Russia del 1917, l'Italia del 65 non è la Russia precapitalistica del 17, è un paese sviluppato economicamente, come vi comporterete in questo paese? Quale modello di sviluppo applicherete? Questa fu la mia domanda. Ed allora la polemica o il dibattito col Partito Comunista è continuato. Era un uomo di sinistra e considerava la sinistra di allora come un'altra chiesa, e lo era, una chiesa laica, ma lo era. Tra i dirigenti comunisti italiani degli anni 40, 50, 60, il principale interlocutore, l'uomo a cui si sentì d'altronde più vicino anche per storie personali, Ugo La Malfa, fu Giorgio Amendola. Del rapporto di La Malfa con Denny credo si possa dire che fu un rapporto senza dubbio di collaborazione, positivo. I socialisti, in particolare Nenni, ebbe rapporti piuttosto stretti. Nenni ebbe il premio Stalin, anzi la cosa in un certo senso divertente, che divertì anche La Malfa, sapendolo che quando ritornò da Mosca e viene a raccontare poi a De Gasperi correttamente, dopo un viaggio all'estero lo si faceva, che lui aveva detto, Nenni, aveva detto a Stalin che l'Italia doveva essere neutrale, e Stalin aveva detto ma l'Italia non può essere neutrale per la sua posizione, l'essenziale è non essere oltranzisti nelle alleanze. E quindi la frase che Nenni poi utilizzò moltissimo, oltranzismo atlantico, non era sua, ma il copyright era di Stalin. La Malfa voleva guadagnare alla democrazia, se posso usare una metafora cattolica, la pecorella smarrita. E i socialisti non lavoravano con la stessa alacrità da lui usata, perché anche questo si capisce abbastanza. Quindi la pecorella smarrita socialista arrivò nell'ovile, ma lasciando fuori una parte di gregge sperduto che era molto più corposo, ecco. E quindi la Malfa si dedicò immediatamente a questo secondo obiettivo e lo privilegiò. In Italia teniamo presente che nell'arco dei 2 anni dopo la crisi petrolifera vi è stato, si è temuto il sorpasso del Partito Comunista dell'epoca, che indusse la Malfa, sfruttando fu l'ultimo suo atto, sfruttando le conoscenze dirette che lui aveva dei leader del Partito Comunista Italiano di allora, che sapeva profondamente democratici e legati al paese, lanciò la proposta del compromesso storico. Ricordo, ed è l'ultimo ricordo proprio che io ho di Ugo, che quando Berlinguer fece il discorso che poi fu soprannominato il discorso dello strappo, e disse qui questa strada ormai è finita, noi dobbiamo fare altre, noi comunisti italiani dobbiamo fare altre cose, ma proprio era finita da poco la trasmissione, le agenzie che mandavano i primi flash, mi arrivò la telefonata di Ugo che mi disse: hai sentito? Sì, ho sentito, è arrivato all'appuntamento, adesso faranno di tutto per lasciarli, per ributtarli nel ghetto dal quale stanno uscendo, quindi noi dovremo impedire questo. Io passerò, ma il partito dell'unità e dell'indipendenza del paese, il partito dell'europeismo di Mazzini, del federalismo di Cattaneo, continuerà. Io non vedo ancora l'Italia che sognavo, e questo rimane un compito che attende i giovani. Ma sono convinto che sapremo reinserire l'Italia fra le società più avanzate dell'Occidente. Esiste ancora un grande avvenire per il nostro paese. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.